Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Quinta puntata. Il commissario si risvegliò col malo di testa perché qualcuno cantava nel bagno. Di colpo gli tornò la memoria. Corse verso il bagno. Mimì si stava facendo la doccia allagando in terra. Che fare? Abbatterlo con un colpo alla nuca? Tornò in cucina, si preparò il caffè, se ne pigliò una tazza e apparse Mimì, rasato, freschissimo, sorridente. Ce n'è magari per mia? Piglia, piglia. Uno? Sì, grazie. Senti, Salvo, dimentica le cose che ti ho detto ieri sera, sono tutte minchiate, io mi ci voglio maritare con Beppe. Auguri e figli mascoli, e complimenti, Complimenti di che? Per il lavoro che avete fatto su Gargano, tu in particolare hai fatto un lavoro piccolo piccolo. Guarda che io ho partecipato in minima parte alle indagini, è tutto in mano a Guarnotta, perciò non te la pigliare con mia. Non avete assolutamente idea di dove possano essere finiti i soldi. No, veramente si pensa che Gargano abbia fatto anche lui il solito giochetto delle società a scatola cinese, no? Ha aperto tante piccole società con sede all'estero e ha cominciato a far girare i soldi da una all'altra, da un paese all'altro, sperando che si perdessero le tracce. Ecco qua. E non avete pensato che potrebbe essere scomparso o fatto scomparire dalle nostre parti? Ma non ci sono riscontri. Non c'è né un biglietto aereo, né un biglietto di treno, niente che attesti la sua partenza da Milano. Almeno nei giorni precedenti la sua sparizione, Potrebbe essere venuto in automobile. No, perché la sua automobile da queste parti la conoscono tutti e non l'ha vista nessuno. Paradossalmente, Gargano potrebbe non essersi mai mosso da Milano. Senti, c'è altro? No, perché io penso che Beba sia un po' incazzata. Ti dispiace? No, prego, per carità, vai. Ma perché ti stai minchiando con Gargano, Non lo so bene nemmeno io. Senti, è notizia di François? Ho parlato ieri con Franca, stanno bene. E rivede il matrimonio. Ciao, Salvo. Ciao. Fazio, senti, lascia perdere quello che ti ho detto ieri, Il dottor Augello mi ha spiegato che hanno fatto delle ricerche serie. Però non c'è manco un cane che ha visto Gargano da questa parte. Va bene, come comanda lei, commissario? Senti, altra novità? Ma io ho trovato un appunto tra le carte del dottor Augello, Eccolo qua. Di un signore che dice di aver visto la macchina di Gargano in una stradina di campagna vicino al mare, nella notte tra il 31 agosto e il 1 di settembre. Sì, però il dottor Augello, come vede, ha scritto al lato da non prendere in considerazione, così hanno fatto. E perché ha scritto da non prendere in considerazione? Perché il testimone si chiama Antonino Tommasino, commissario. Capito, ma che me ne fotto come si chiama? L'importante è che ha visto a Gargano. No, non deve fottersene, commissario. Questo Antonino Tommasino, 2 anni fa, andò dai carabinieri a denunciare che dalle parti di Punta Secca c'era un mostro a 3 teste. E poi l'anno passato si presentò pure da noi, all'alba, facendo voce che aveva visto atterrare un disco volante. Si figurasse che lo contò a Catarella, Catarella si impressionò, cominciò a fare voce pure lui. Non me lo posso immaginare. Senti, va bene. Grazie. Di nulla, commissario. Va buono. Matrimonio è rimandato. Oh, mamma mia, ma perché? Ci hai pensato un'altra volta? No, è che stamattina hanno telefonato a Beba da Idone. Suo padre ha avuto un infarto. Lei è partita subito, io la raggiungo oggi stesso. E io come faccio? In che senso? Che non ce la faccio ancora ad aspettare un mese, una notte risvegliata a pensare quanto manca al matrimonio, una notte appresa a pensare come scappare. Io non ce la faccio, Salvo. O a me mi portate con la camicia di forza davanti all'altare, oppure a me mi viene l'esaurimento. No, lascia perdere l'esaurimento. Senti, tu adesso te ne vai a Idone a vedere come sta il tuo suocero. Poi torni qua e ripigli il servizio, Dai, io intanto avverto Livi. Non ce n'è bisogno, l'ho già avvertita io. Al suo futuro suocero gli piglia il sintomo. La sua zita chiagna e si dispera. Il suo matrimonio va a farsi fottere e lui come prima cosa che fa? Telefona alla mia fidanzata. Cornutazzo. Nishi arrivò al porto, principiò una lunga camminata per farsi passare il nervoso. Non seppe perché, ma tornando al commissariato gli venne di canciare strada e di passare davanti all'agenzia della Remmida. Era aperta. Maria Stella Cosentino stava assettata dal re lo sportello, immobile, gli occhi fissi davanti a sé. Buongiorno, commissario. Buongiorno, signora. Passavo di qua e volevo sapere se c'era una novità. Nessuno. Prego. Grazie. Nessuna notizia di Giacomo Pellegrino dalla Germania? Dalla Germania? Sì, è dovuto andare là per lavoro, non lo sapeva? No, non lo sapevo. E infatti mi domandavo che fine avesse fatto. Ho pensato che non si era fatto vedere per evitare... No, lo zio di Giacomo Pellegrino, che tra l'altro porta il suo stesso nome, mi ha detto che il nipote è dovuto andare in Germania per affari, su incarico dello stesso ragionier Gargano. Tra l'altro è partito proprio il 31 agosto. Il giorno avanti del giorno previsto per l'arrivo del ragioniere? Esattamente. Perché c'è qualche cosa che non la convince? Se devo essere sincera, sì. E mi dica. Ma Giacomo era quello che tra tutti noi collaborava con il ragioniere in fatto di pagamenti e nel conteggio degli interessi. Che il ragioniere gli abbia dato un incarico lontano quando ne avrebbe avuto più bisogno, mi pare strano. E poi Giacomo non è che ci capisse molto di alta finanza. Il ragioniere invece sì, era un mago. Beh, certo. Senta, non è che lei avrebbe l'indirizzo di Giacomo Pellegrino qua a Vegata? Certo. Montalbano ne uscì dall'agenzia di corsa. Gli mancava l'aria. La porta dell'appartamento di Giacomo Pellegrino era spalancata. Sacchetti di cemento, scatole di colori per pareti e altre robe di muratori erano ammucchiati sul pianerottolo. Signora Caterina! Signora Caterina! Chi c'è? Vinissi! C'è sto signore che la vuole! Non ci sentiamo! Anche a arrivo, grazie mille. Montalbano salì le scale e comparve la signora Caterina. Buongiorno signora. Buongiorno, lei qui? Sono il commissario Montalbano. Commissario Montalbano, me l'aspettavo. Me la sentiva questo delinquente degenerato. In cazzo, in galera fino all'anno della morte sono. Ma con chi ce l'ha signora, mi scusi? Ma come con chi ce l'ha? Io con mio marito. C'è nottate sta passando fuori da casa. Sì, se la fa una caioca, si imbriaca, se la fa con le puttanazze, sto grandissimo pomatoso. Ma io mica sono venuto per suo marito, eh. Ah, no? No. Allora si assettasse. Grazie. Ma perché venne? Per Giacomo Pellegrino, che ha affittato l'appartamento di sotto, giusto? Oh, Maria, che bravo pezzotto che è. Pulito, arrugato, peccato che lo pesse. Che significa che lo pesse? Che lo pesse perché me lo so a casa. Non abita più al piano di sotto? Non se. No, cioè, mi racconti dal principio. Quale principio? Verso 25 ore sta chiana e mi dice che me la sta a casa. E siccome non mi ha mandato preavviso, mi mette in mano i soldi di 3 mesi. Io non c'è di mattina. Si prepara due valigie con la roba, so. Mi saluta. E me la sta la casa vacante. Chiesto io al principio e alla fine. Lei è sicura che fosse il 30 e non il 31? Sicurissima. Perché il 30? Ieri è il giorno del mio compleanno. E magari quel giorno quel grandissimo fetuso di mio marito mi lasciò qua da sola. Ah, ho capito. Senta signora, non è che le ha detto dove sarebbe andata ad abitare? Mi disse che sarebbe andata una mesata in Germania. E un suo ritorno si ne va a abitare in una casa sua. Ah, e è venuto a cercarlo qualcuno? No, nessuno. Ok, un'ultima domanda. Che lei sappia, Giacomo aveva un'automobile? Giacomino? Mm. Non si, chi aveva un motorino scassato, come ora partiva e ora no. Ho capito. Va bene, signora, io tolgo il disturbo, la ringrazio, eh. La saluto, non l'accompagno perché ancora è preparata per mangiare, è già tardi, eh. Non si preoccupi, signora, buona giornata. Arrivederci. Montalbano rifletteva su quello che aveva detto la signora Caterina, confrontando le sue parole con le informazioni che lo zio di Giacomo aveva dato sugli spostamenti del nipote. Secondo quest'ultimo, infatti, Giacomo Pellegrino avrebbe pigliato un aereo per la Germania il 31 agosto nel pomeriggio alle 4. Pronto, chi parla? Ah, pronto, Cadarella, Montalbano sono. Ah, buongiorno, dottore. Sì. Buongiorno. Senti, passami Fazio. Un attimo che glielo passo. Ispettore Fazio, al telefono lavora il commissario. Pronto, commissario, sono Fazio, mi dica. Oh, Fazio, senti, ma dovresti controllare se sul volo delle 16 del 31 agosto per la Germania c'è una prenotazione a nome Giacomo Pellegrino. Sì. In Germania dove, commissario? Non lo so. Commissario, la Germania è grande, di città assai ce ne sono. Ah, sì? Che fa lo spiritoso? No, pensavo solamente di poter avere un'indicazione più precisa, ecco. Fazio, se c'è un'indicazione più precisa te la damo, no? Provvedo subito, commissario. Bravo. Arrivederci. La domanda fondamentale appariva dunque questa. Dove aveva dormito Giacomo nella notte tra il 30 e il 31 agosto? Il commissario Montalbano, l'odore della notte. Con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante. E con Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.